Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Come spesso ripeto al cacciatore di libri, ci sono dei romanzi, dei libri che mi attirano innanzitutto per il titolo, e devo dire che questo romanzo di cui vi parlo oggi mi ha attratto innanzitutto per il titolo. È uno di quei libri che, così, vedendoli nel mucchio dei libri che stanno in libreria, tu dici: ma andiamo a vedere un po' di che si tratta. Si intitola I nomi che diamo alle cose. L'ha scritto Beatrice Masini, pubblicato da Bumpiani. Beatrice Masini è nota per essere, per esempio, una famosissima, ne ho tante di definizioni da dare, però insomma è una nota autrice di libri per bambini e ragazzi. È stata la traduttrice di Harry Potter, credo 5 volumi su 7, vero? Precisamente sì. Quindi insomma, anche da quel punto di vista. Da qualche anno si è dedicata anche alla cosiddetta scrittura per adulti, diciamola così, e al primo tentativo, con Tentativi di botanica degli affetti nel 2013, era arrivata finalista al Campiello. Ora c'è questo nuovo romanzo che è dedicato appunto alle persone grandi, non ai ragazzi nello specifico. Ho detto che questo titolo mi ha attratto subito molto, perché i nomi che diamo alle cose ha tanti significati, poi dal libro si capisce che significato gli dai tu, però io ho pensato al fatto che noi tendiamo sempre a dare dei nomi alle cose quasi per avere una forma di sicurezza, per capire che cos'è, e sentiamo anche la necessità di dare un nome alle cose, per avere, come dire, sotto controllo la situazione che ci circonda. Tu come hai, tu e poi la protagonista, poi vedremo le due protagoniste del tuo romanzo, come intendi questa frase così secca? Se non fosse il titolo del tuo libro, ma me la dovessi vedere scritta così, i nomi che diamo alle cose. Io ci vedrei anche un piccolo equivoco, nel senso che i nomi che diamo alle cose sono i nomi che scegliamo per le cose, e spesso ci piace chiamare le cose in un altro modo. Amore è una parola larga, apparentemente, anzi larghissima, ci stanno dentro tante forme, però qualche volta chiamiamo amore quello che non lo è. E così via. Poi c'è anche un altro senso che è legato al mestiere di una delle protagoniste, che è una scrittrice per bambini e per ragazzi di grandissimo successo, e questo successo che l'ha portata anche a staccarsi molto velocemente dal mondo, non avere tanto bisogno del mondo, fa poi si accoppia a una fatica invece di stare in mezzo agli altri, di relazione, che è insomma il suo carico, il suo peso. Ecco, i bambini che sono i destinatari delle storie di questa protagonista scrittrice fuori scena, che si chiama Iride, chiamano le cose, e via via che imparano le parole definiscono il mondo, lo arredano in un certo senso. Sì, e quindi, perché nei bambini il linguaggio è la prima cosa con cui, come dire, associano una parola, appunto un suono più che altro, ad una cosa, ad un oggetto, a un concetto. Precisamente, ed è così che riempiono piano piano il loro mondo, le loro definizioni di mondo. Ed è curioso che una persona che lavora con le parole e che quindi ne conosce le sfumature, le sfaccettature, anche gli usi, le combinazioni, e lavora con le parole rivolgendosi ai bambini, che sono appunto, che fanno questo gioco di Lego, di costruzione, certo, proprio con le parole, sia stata capace di fraintendere, o meglio di non intendere precisamente quello che voleva, insomma, di attribuire dei sensi a delle cose che erano un pochino diverse. Un destino che la accomuna all'altra protagonista, invece presente del libro, che è Anna. Ecco, allora veniamo un po' alla descrizione delle, certo, due protagoniste. Da una parte c'è Anna, una quarantenne, anche lei gioca molto con le parole perché ha fatto la giornalista, poi fa la editor, quindi sostanzialmente corregge i libri degli altri. E c'è invece dall'altra parte, abbiamo visto questa Iride Bandini, che è stata una celebre scrittrice per ragazzi. Parliamo al passato, perché proprio l'incipit del tuo romanzo inizia con il funerale di Iride. E l'incipit, devo dire, è decisamente intenso. C'è un virgolettato: se tutte le persone intelligenti fossero anche buone, il mondo sarebbe un posto migliore. Questo perché all'inizio, insomma, c'è il funerale di questa Iride, e a un certo punto si capisce che quello che sta parlando è il figlio, che dice sostanzialmente che lui ha avuto una madre cattiva, possiamo dire così? Sì, e bisognerebbe chiedersi però se una madre cattiva è anche una cattiva madre, o meglio, che cosa ha prevalso nel suo legame con il figlio. Lo scopriremo strada facendo. Lui comunque ha un uomo, un giovane uomo molto arrabbiato e molto segnato da questo rapporto, forse proprio dall'assenza di questo rapporto, meglio da quello di cui si è dovuto accontentare, con una mamma che gli dava tante cose materiali che però lo lasciava anche molto solo. Ecco, questa donna appunto riassume in sé un sacco di contraddizioni, proprio perché nonostante il suo lavoro apparentemente la debba aver avvicinato al mondo dei bambini, in realtà è quanto più di più lontano poteva essere dal suo figlio, ma anche da un legame istintivo, naturale, affettivo, affettuoso con questo che poi è diventato il suo pubblico e che in fondo le ha dato poi la libertà, no, di essere se stessa, di diventare ricca, di costruirsi una vita come la voleva. I legami sono molto importanti in questo romanzo, anche per l'altra protagonista, Anna. Noi in realtà scopriamo la storia della scrittrice, appunto, che è morta attraverso dei flashback, delle parole di Anna, perché Anna aveva corretto i suoi libri. Questa anziana scrittrice lascia in eredità ad Anna una piccola casa sul lago di Garda, sulla sponda veronese, e lei qui dentro trova addirittura delle vecchie favole in una scatola di latta, insomma, quindi si ricostruisce un po' a flashback anche il passato della scrittrice. Anche Anna, la quarantenne, non ha una vita emotiva molto serena, ad iniziare dai suoi rapporti sentimentali, per esempio. Lei in verità coglie questa occasione assolutamente inaspettata dell'eredità, anche inspiegabile, perché di fatto con Irida aveva avuto un rapporto meramente professionale e piuttosto freddo e distaccato, come era nella natura di Iride, però coglie l'occasione di questa piccola casa che le è stata lasciata per dare uno strappo alla sua vita di prima, che è una vita milanese in senso rotondo, quindi una vita intensa, frenetica, anche molto appagante, spesso complicata, in cui i legami entrano ed escono. In particolare lei ha un nodo, proprio un groviglio che non è riuscita a sbrogliare, che è un legame sentimentale con un uomo sposato con figli, e quindi non sono successe delle cose che lei avrebbe voluto, e dunque è proprio cogliere l'attimo, questa nuova apertura, come proprio una porta che si apre, ci vado di là, anche se non so che cosa ci sarà, anche perché appunto Anna non ha nessun collegamento di radici con questo posto, non è il posto dei padri, nessuna familiarità. Lei si trasferisce in questo luogo. Tra l'altro il tema delle radici torna spesso, le nomini spesso la parola radici in questo romanzo. Lo fai dire all'inizio riferendoti appunto ad Anna, che sembra una che non ha radici, che può essere sradicata quasi. C'è una scena in cui lei parla con un uomo e lui dice: ah, venite qui a mettere le vostre radici da un'altra parte, eccetera. Però le radici per Anna che cosa sono? Una fonte di sicurezza o una prigione? Io credo che Anna non ce le abbia le radici, o meglio non si sia mai soffermata a pensare a che cosa sono. Alla fine la cosa più salda nella sua vita è proprio il suo lavoro, che diventa però un'attitudine più larga, cioè non è un mestiere, è proprio il lavoro. A un certo punto è la sua identità, ecco, sì, come misura della vita, misura del tempo e misura di se stessa, perché di fatto facendo prima la giornalista e poi l'editor, anche la ghostwriter, quindi accogliendo, ascoltando le storie degli altri, lei ha proprio questa attitudine a stare attenta, all'ascolto in senso ampio, ed è proprio la sua attitudine all'ascolto che la rende la ricevente di questa, diciamo, sorta di eredità che non è soltanto fisica, non è una casetta, non è solo la una casa, portineria, ma c'è tanto ma altro. è un lascito più lungo, che di cui Anna appunto non capisce tanto il senso, ma che ricostruirà piano piano, perché alla fine Anna è chiamata proprio dagli eventi, dall'incrociarsi dei fatti, a riallacciare i legami degli altri attraverso il proprio ascolto, quindi l'ascolto dedicato alla vecchia signora ancora viva, che è stata la dama di compagnia, la segretaria della scrittrice, e che con lei ha condiviso un grosso segreto che è proprio rimasto sempre chiuso, sempre buio per tanto tempo. Quindi attraverso questa, diciamo, dama di compagnia che noi scopriamo alcuni elementi della scrittrice. Certo, e poi tutte le altre persone di fatto con cui lei si incrocia in questo mondo che non è il suo e che scopre all'inizio con diffidenza, poi con curiosità, hanno qualcosa da raccontarle, e lei è quella che raccoglie le storie, quindi c'è questo filo che la lega idealmente a Iride. Iride è una scrittrice, anche lei ha raccontato le storie che venivano da dentro di sé. Anna ha raccontato sempre le storie degli altri, e però è capace di metterle insieme, ecco. Quindi il suo compito in questo piccolo mondo in cui si infila quasi a forza è rimettere a posto le storie. Beh, Anna sicuramente mi ricorda molte donne concrete, vere, che conosco, insomma, che conosciamo, le quarantenni che sono assorbite, appassionate dal proprio lavoro, che si identificano in un lavoro che in questo caso è creativo, quindi anche molto bello, ma che comunque non riescono a essere soddisfatte a 360 gradi, hanno delle vite sentimentali un po' spezzate, hanno tutta una riflessione sulla maternità e sulla maternità mancata. In questo ti sei fatta ispirare un po' dalla realtà che ci circonda? Certo, soprattutto mi sono chiesta appunto come sui 40 anni ci si pone rispetto a questi nodi se non si è riusciti a sbrogliarli, perché alla fine Anna è stata forse vittima di cose successe, di eventi, anche di persone, ma è stata vittima perché non ha mai poi messo nell'ordine giusto forse le cose che voleva, e adesso che comincia forse a essere troppo tardi fa questa appunto ricostruzione, questa narrazione anche di 6 a 6 in cui però improvvisamente tutto d'un colpo deve essere onesta anche solo per poter ricominciare da lì, e quindi per dare un senso a questo suo spostamento, sradicamento o riradicamento, non può farlo con il carico che aveva prima, e quindi in effetti proprio stando lì tutti i nodi piano piano verranno al pettine e verranno a lei, ecco, è come se a un certo punto lei fosse dotata di una sorta di magnetismo per cui tutte le cose che non ha approfondito, che non ha voluto far fuori fino a quel momento, arrivassero lì e chiedessero di essere risolte. Grazie a Beatrice Masini, ora in libreria con I nomi che diamo alle cose, pubblicato da Bompiani. Vorrei anche ricordare un altro libro di Beatrice Masini fra i tanti, perché mi è piaciuto veramente molto, La cena del cuore, 13 parole per Emily Dickinson, pubblicato da una casa editrice siciliana, la Rue Ballou, che è rivolto sia ai ragazzi che agli adulti. Devo dire che io personalmente a 46 anni ho scoperto tante cose di Emily Dickinson, poetessa americana, insomma, di cui conoscevo ben poco, proprio attraverso il libro di Beatrice Masini mi è venuta poi voglia di leggere le poesie. Grazie Beatrice. Grazie a voi. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Al cacciatore di libri parliamo quasi esclusivamente di romanzi, ma diciamo che ogni tanto vale la pena fare un'eccezione. È il caso di 28 domande per affrontare il futuro, sottotitolo Un nuovo modo per ricordare il passato e immaginare l'avvenire. L'ha scritto Theodor Zeldin, che è uno studioso piuttosto eccentrico dell'Università di Oxford. È stato inserito dal britannico Independent on Sunday nella lista delle 40 personalità di oggi le cui idee potranno influenzare il nuovo millennio. In Italia il libro è stato pubblicato da Sellerio con la traduzione di Roberto Serrai. Devo dire, io sono rimasta affascinata sia dal libro che dalla persona, dal modo in cui parla, dalle cose che dice. Il libro si può leggere anche a pezzettini, per capitoli. Si apre un capitolo, lo si legge, poi magari qualche giorno dopo, qualche settimana dopo, ne si legge un altro, perché è tutto un libro che ha a che fare col senso della vita. La domanda di partenza, infatti, è: qual è il meglio che la vita può offrirci? In un mondo considerato violento, inquinato, corrotto, che cosa possiamo fare per immaginare una nuova arte del vivere? Zeldin ha identificato 28 punti e prova a dare delle risposte, o meglio, fa delle riflessioni. Parte prima con degli esempi di personaggi esistiti nel passato, su come queste personalità hanno affrontato questi punti, e da qui ne deriva poi una disquisizione, diciamo, filosofica. In base a quale criterio Zeldin ha scelto questi 28 punti su cui riflettere? Sentiamolo. I read thousands, hundred thousands of books, and this is what came to me to become the question I asked myself: how do I want to live? What is life? Ho letto migliaia di libri e questa è diventata la domanda che mi sono posto. Come voglio vivere? Cos'è la vita? Perché quando ero giovane nessuno mi ha spiegato cosa fosse. Ti dicono solo devi andare a scuola, poi all'università, ed è così per tutti. Quindi, quando poi hai il tempo per pensare, che cosa dovresti fare? È questa la domanda giusta da porti. Quali scelte hai? La mia risposta si basa sull'aver studiato diverse persone in diverse civiltà e il modo in cui hanno speso la loro vita. Molte persone, dopo aver raggiunto un grande successo, si sono rese conto di aver sprecato la loro vita. Così ho scoperto, quando ho parlato con businessmen di grande successo, che arrivati a 45-50 anni si chiedono: ma che cosa ne ho fatto della mia vita? Volevo il successo? Ma che cos'è? Adesso è arrivato il momento di chiedersi in che modo stiamo sprecando le nostre vite, correndo e girando a vuoto solo per fare soldi. Quindi quello che faccio con questo libro è spiegare le alternative. Cos'altro possiamo fare nelle nostre vite? Abbiamo cercato di conquistare altri paesi, di fare guerre. Beh, che risultati abbiamo ottenuto? Adesso che siamo più ricchi di altre persone, ci riteniamo migliori? Abbiamo sviluppato tante medicine che ci permettono di vivere più a lungo, ma arrivati alla vecchiaia, siamo comunque pieni di ansie. Abbiamo un costante bisogno di aiuto per risolvere le nostre preoccupazioni. Ci rivolgiamo ai terapisti e non stiamo comunque raggiungendo nessuno scopo. Quindi, cosa dovremmo fare? E questa è la mia risposta. Not achieving anything. So what should we do? And this is my answer. Queste domande che lei si pone sono legate al suo percorso personale, al fatto che comunque lei ha raggiunto una certa esperienza e una certa età, o sono domande legate all'epoca storica che stiamo vivendo? Both. That is to say, my life has been also the study of other people's lives. Direi entrambe le cose. La mia vita è stata anche lo studio della vita degli altri. Non ho soltanto fatto introspezione su di me. Ho passato la mia vita a scoprire le altre persone, ma sono consapevole che il mondo è cambiato. Adesso abbiamo creato quasi un nuovo tipo di essere umano, più istruito, con più aspettative, che vuole girare il mondo e al quale non basta più vivere nel paesello in cui è nato. Non è più sufficiente essere un esperto di una materia specifica e ignorare tutto il resto. Dobbiamo trovare un modo nuovo di vivere per il nuovo tipo di essere umano che abbiamo creato per errore. Non sapevamo che il sapere avrebbe cambiato le persone. A way of living for the kind of human being we have invented by mistake. We didn't know that education would change people. Fra le varie domande che lei si pone in questo libro, a cui cerca di dare appunto una risposta prendendo come esempio persone dell'antichità, di altri popoli, di altre situazioni proprio socio-economiche, insomma, ce ne sono alcune che mi hanno colpito particolarmente. A un certo punto lei intitola un capitolo «Quanti modi esistono per suicidarsi?». Dice che ogni 40 secondi nel mondo c'è una persona che si toglie la vita, ma in realtà la riflessione è su come le persone tendono a farsi scivolare la vita addosso. Quindi c'è un modo di essere morti in vita? Yes, indeed. And I think that we have created for ourselves a limitation of what life can be for us because we have become specialists. Sì, è possibile. Penso anche che abbiamo creato una sorta di limitazione di quello che la vita in realtà potrebbe essere, perché siamo diventati degli specialisti e quindi passiamo tutto il nostro tempo a pensare cose tipo come incastrare una banale vita in un qualunque mobile e cose di questo tipo. La nostra istruzione è contraria ai nostri desideri. Noi tutti vorremmo viaggiare e conoscere posti nuovi, anziché passare il resto delle nostre vite davanti allo schermo di un computer. Quando cerco di rispondere a questa domanda, cerco di evitare di fare quello che è già stato fatto in passato, di avere un'utopia, che sia possibile risolvere tutti questi problemi. Faccio un esempio. Aristotele era un uomo molto intelligente. Scrisse libri su ogni cosa, era interessato a tutto. Ma cosa disse alla fine della sua vita? Più ho conosciuto il mondo e più sono diventato solo. È molto triste. Ciò che ci sfugge è che la sua soluzione era che se sei un uomo buono, avrai una vita buona. Ma come si fa ad essere buoni se il mondo è cattivo? Perché è molto difficile essere una persona buona se vuoi avere successo. Non sempre puoi dire la verità. Puoi dire mezze verità. Il mondo della pubblicità, ad esempio, è così. La mia risposta a tutto questo è: scopriamo cosa hanno da dire le altre persone, perché per me questo è il più grande mistero. Se ti capisco, sentirò qualcosa per te. Anche se non andiamo d'accordo, io ti capirò. Even if I disagree with you, even if you have opinions which I don't like, I will understand why you have these opinions. C'è un altro tema su cui lei riflette molto, non solo in questo libro ma anche in alcuni precedenti. A cosa serve lavorare tanto? È una domanda che ci si sta ponendo negli ultimi anni. Ci sono per esempio delle società che hanno dato libertà ai dipendenti di prendere ferie quando vogliono, la possibilità di avere orari elastici e così via. È una riflessione che sta iniziando negli ultimi anni. Lei quale pensa sia la via migliore da seguire in questo senso? I think the solution of business today is to say that you have to have a work-life balance. I think this is a mistake. Penso che nel mondo del lavoro la soluzione oggi sia quella di dire che esiste un equilibrio tra vita e lavoro. Ma questo è un errore. Sottintende il fatto che il lavoro non è vita e che lavori ora per non lavorare più tardi. Sono convinto che il lavoro è il modo in cui spendi il tempo, che è la cosa più preziosa che abbiamo. Per questo motivo dobbiamo ripensare il modo in cui lavoriamo, perché, come dicevo prima, le persone istruite vogliono esperienze nuove, provare cose diverse. E questo significa che dobbiamo riconoscere il fatto che nel corso dei secoli, per diverse civiltà, abbiamo inventato ogni volta nuovi lavori, nuove professioni. Prima l'agricoltura, poi l'industria, il terziario. E ancora la pubblica amministrazione. Ogni volta c'erano troppe persone da far lavorare e ora c'è 1 miliardo di persone senza lavoro o senza un lavoro che vada bene per le loro competenze. È un problema molto serio e non stiamo trovando una risposta. Stiamo solo sovvenzionando i datori di lavoro affinché riescano ad assumere qualche altro dipendente e la cosa non sta funzionando. E questo perché non abbiamo abbastanza immaginazione. L'ultima parte del libro tratta proprio di questo, dei modi in cui si può sperimentare una serie di controvalori che rendano le persone migliori. Dare ai dipendenti il contentino delle ferie non funzionerà. Bisogna strutturare un rapporto di collaborazione tra datori di lavoro e dipendenti. È questa la sfida del nostro tempo. Ripensare il modo in cui lavoriamo. Vorrei la collaborazione di grandi aziende come IKEA, Generali, le grandi catene alberghiere, per provare a fare qualcosa di diverso, ma non è sufficiente. Insurance company and in hotels. It is possible to try to do something different, but not enough. Ho letto che lei ha dichiarato che mindfulness, insomma la consapevolezza, la meditazione sono una cosa negativa in realtà per gli uomini perché bloccano la capacità di pensare. Ci può spiegare meglio questa prospettiva, questo punto di vista? Yes, I think mindfulness is an American importation. And it is now a big business, and lots of people are making money out of it. La meditazione è un'importazione americana che adesso è diventata un grande business da cui molte persone stanno traendo grandi guadagni. Lo scopo è quello di tranquillizzarti. Se hai delle ansie, se pensi di non essere buono abbastanza, ti permette di rasserenarti. Può essere utile per alcuni, ma non ti dice cosa pensare. Se svuoti la tua mente, poi devi trovare anche qualcosa per riempirla. Ciò che ti distingue in quanto essere umano è la capacità di ragionare, di sviluppare idee proprie. È importante che quelli che diffondono la meditazione dicano che la loro non è una cura una tantum e che il giorno dopo dovrai ripetere la stessa pratica. Il mio interesse è capire cosa possiamo immaginare di quello di cui ancora non abbiamo avuto esperienza. My interest is seeing what we can imagine which we have not yet experienced. E questo era Theodor Zeldin, studioso inglese, in libreria con 28 domande per affrontare il futuro, pubblicato da Sellerio. Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento settimanale del martedì sul sole24ore.com con Autori, le strade della narrazione. Si tratta di un video in cui uno scrittore racconta a suo modo un suo libro. Martedì 1 marzo sarà la volta di Edgardo Franzosini, autore di Questa vita tuttavia mi pesa molto, pubblicato da Adelphi. Sentiamo un breve estratto. Mi hanno comunicato ieri la risoluzione del Consiglio Municipale, ha scritto il direttore a Bugatti, concedendomi 48 ore per preparare ogni cosa. Alle 5 di domani mattina dovrò aprire le porte dello zoo a un battaglione di soldati che si occuperà di tutta la spaventosa faccenda. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore in podcast su radio24.it. Per essere aggiornati potete seguirmi su Twitter. Grazie in regia Valeria Bernardi, una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.